Salve amici di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 27 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e la ricetta di oggi è patate champignon allo smarino. Ingredienti per 4 persone: 5 patate, 250 g di champignon, rosmarino, aglio, olio extravergine, sale. Preparazione: ripulire gli champignon e tagliarli a fettine. Sbucciare le patate e tagliarle a dadini. In una padella sofriggere lo spicchio d'aglio, quindi rosolate i dadini di patate e insaporire con un pizzico di sale. Allungare con un po' di acqua calda, abbassare la fiamma, mettere il coperchio e continuate la cottura per circa 10 minuti, ricordando di allungare con altra acqua se è necessario. Quando le patate sono ammorbidite, scoprite e continuate la cottura a fuoco dolce per altri 5 minuti. A questo punto unite i funghi e insaporire con gli aghi di rosmarino. Continuate la cottura fino a quando sulle patate non si forma una crosticina. Buon appetito! Il vino consigliato è vino pecorino 100% dei Colli Aprutini IGT. Gradazione alcolica 13. Temperatura di servizio 10 gradi centigradi. Questa era la puntata numero 27 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima ricetta a Radio Big World.